Un tranquillo weekend di paura. Dopo le prime schermaglie tra Pyongyang e Washington, i primi colpi di fioretto si è arrivate alle mazzate serie. Beh, dal punto di vista della comunicazione, per ora andiamo a Pyongyang. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Let's see what he does with Guam. He does something in Guam, it will be an event the likes of which nobody's seen before. What will happen in North Korea? Ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, puntata di Nessun Luogo è Lontano che volge lo sguardo ad est. Vi ricordo, per commentare, porre domande, lo potete fare al 349-238-6666, sms e whatsapp, ma soprattutto Twitter, Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24, e poi c'è la pagina Facebook che è Nessun Luogo è Lontano trattino Radio 24. Oggi di cosa parliamo? Della Corea. Innanzitutto una fotografia, Corea del Nord, una fotografia di questo paese. La Repubblica Popolare Democratica di Corea, questo è il nome ufficiale della Corea del Nord, è uno stato nato sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Fredda, che confina con la Cina, con il Mar del Giappone, con la Corea del Sud e, per un breve tratto, con la Russia. Nel 1945, subito dopo la sconfitta del Giappone, il leader militare della resistenza antigiapponese Kim Il-sung si impone come segretario dell'unico partito al potere, il Partito dei Lavoratori, e dà origine alla dinastia dei Kim, che governa la nazione ancora oggi. Nel 1950 scoppia la Guerra di Corea. Kim Il-sung invade la Corea del Sud e la occupa, scatenando l'intervento degli Stati Uniti e poi della Cina, tuttora principale alleato della Corea del Nord. La guerra si conclude nel 1953 con un armistizio tra Corea del Nord e Corea del Sud, ma le due nazioni sono ancora tecnicamente in guerra e sono separate dalla cosiddetta zona demilitarizzata, una zona cuscinetto che corre lungo il 38° parallelo e che è in realtà tra le zone più armate del pianeta. La Corea del Nord, definito anche il Regno Eremita o l'ultimo regime stalinista, è uno dei paesi con il peggior registro di violazioni dei diritti umani al mondo. Il paese conta circa 28 milioni di abitanti. La sua economia si basa sull'esportazione di minerali, sulla metallurgia, sull'agricoltura e sulla pesca, mentre importa petrolio, carbone, grano e macchinari. In entrambi i casi il partner commerciale principale è la Cina. Tuttavia, la stabilità economica del paese è perennemente in bilico a causa degli ingenti investimenti nel settore militare, balistico e nucleare e delle numerose sanzioni ricevute. L'economia nordcoreana, inoltre, è coinvolta in numerosi affari illeciti internazionali, come la produzione e il traffico di metanfetamine, il cybercrime e la rivendita di armi e tecnologia militare a nazioni sottoposte a sanzioni. E vi presento immediatamente i due ospiti che assieme a me cercheranno di svelare anche le pieghe, i chiaroscuri che avvolgono questo paese che non è mai adeguatamente raccontato per tutta una serie di motivi che vi sveleremo. Antonio Fiori, professore associato all'Università di Bologna, insegna International Relations East Asia. Buongiorno professor Fiori, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, grazie. E poi abbiamo Giulia Pompili, giornalista, redazione esteri del Foglio, esperta di Estremo Oriente, non solo di Corea del Nord, ma anche e soprattutto di Giappone. Giulia, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano anche per te. Buongiorno a voi. Allora, io partirei dalla strettissima attualità e quindi ti vorrei coinvolgere, Giulia Pompili, perché sulle pagine dei giornali internazionali, ma anche quelle italiane, campeggia ormai da tempo questo countdown che il regime di Pyongyang sta effettuando. E insomma, sarebbe tutto pronto, questione di giorni, questione di ore, non si capisce bene, per questo attacco che per la prima volta nella recente storia nordcoreana mette nel mirino un pezzetto di territorio statunitense, un'isola che si chiama Guam, e dice attenzione perché potremmo colpire quest'isola. Non si è fatta attendere la reazione da parte dell'amministrazione Trump, lo stesso presidente ha promesso fuoco e fiamme, insomma un'escalation per il momento verbale al quale il presidente statunitense ci ha abituato. Che cosa c'è di vero in questo potenziale attacco? Siamo di fronte a un'ennesima mossa di propaganda oppure Pyongyang ha realmente non solo le capacità ma anche le intenzioni di compiere quest'atto? Giulia Pompili. Ma da una parte c'è la reazione di Trump che viene da un report pubblicato dal Washington Post qualche giorno fa. Trump ha reagito parlando a braccio durante un incontro con i giornalisti, come fa spesso. Ha reagito usando, come si è detto, il linguaggio nordcoreano, un po' di propaganda e mostrando molto i muscoli, è un linguaggio molto semplice, vi faremo vedere fuoco, il fuoco e la furia, tra l'altro nello stesso giorno dell'anniversario del bombardamento di Nagasaki, ma insomma... Sì, che dal punto di vista del tempismo e come dire della lungimiranza storica non è esattamente un'uscita garbata e di buon gusto, però il presidente statunitense ci ha abituato appunto a queste uscite estemporanee, esatto. E muscolari. Esatto, e subito dopo è uscito un comunicato nordcoreano che appunto poi è stato integrato, diciamo così, qualche ora dopo da un secondo comunicato in cui si spiegava per bene qual è il progetto, perché sui giornali italiani insomma abbiamo letto la Corea del Nord è pronta a bombardare Guam, in realtà non è esattamente così e forse il professor Fiori in questo mi può aiutare, cioè loro stanno alzando un certo tipo di minaccia come hanno fatto dal 2016 quando hanno iniziato a lanciare a fare test missilistici verso la zona economica esclusiva giapponese. Dal 2016 a oggi tutti i test missilistici, i missili proprio fisicamente, sono caduti all'interno della zona economica esclusiva giapponese, che è un'area di mare abbastanza estesa all'interno del mar del Giappone. Sì. Per alzare ancora un po' l'asticella della tensione, della provocazione, hanno detto siamo pronti a fare a metà agosto un nuovo test, una nuova operazione militare, ma appunto non è esattamente un attacco, sì. Un'operazione militare, un esercizio militare che prevede il lancio di 4 missili a medio corto raggio che cadranno a una quarantina di chilometri dall'isola di Guam, che ricordiamo è territorio americano di fatto. Sì. Dunque, Kim Jong-un che cosa ha fatto? Ha messo, innanzitutto, secondo l'analisi poi di chi si occupa di queste cose, la traiettoria del missile, dei 4 missili, dovrebbe sorvolare il Giappone per arrivare a destinazione. Sì. E mette l'amministrazione Trump di fronte a un dilemma incredibile, cioè lasciar fare la Corea del Nord questa esercitazione, quindi lasciare che 4 missili nordcoreani passino attraverso lo spazio aereo giapponese, oppure tirarli giù. Ma secondo le convenzioni internazionali, se tu tiri giù un missile, un test missilistico, un missile di un altro paese, la reazione non so quale potrebbe essere, nel senso che la dottrina dice che potrebbe essere considerato un attacco di un motivo di guerra, sì. Un attacco diretto, insomma. Sì. Quindi Kim Jong-un è riuscito a mettere all'angolo l'America e fargli decidere, infatti l'ultimo comunicato finiva proprio con aspettiamo di vedere le parole e i comportamenti degli americani a questo punto. La palla è a voi, ecco. Certo, nel frattempo però il Giappone ha fatto sapere che sono in grado di abbattere questi 4 missili nel caso in cui appunto venissero lanciati, e poi poche ore dopo la dichiarazione di Trump Pyongyang ha organizzato una oceanica dimostrazione di protesta appunto contro il regime statunitense, e qua mi rivolgo al professor Antonio Fiori per capire, che è poi la domanda solita quando si vedono queste manifestazioni di piazza in Corea del Nord, Kim Jong non sta parlando solamente ai suoi, sta parlando non soltanto a Donald Trump, ma sta parlando anche ai suoi. Quali sono un po' i meccanismi della propaganda nordcoreana in questi casi? Ma, Giulia Pompili ha detto perfettamente quello che diciamo così, l'obiettivo di Kim Jong-un probabilmente in questo momento, cioè la creazione di un dilemma di non facile risoluzione neanche per gli americani. Io non credo ci sarà nessun attacco. Per rispondere però alla domanda, sì. La creazione di questa mobilitazione in massa è un simbolismo che normalmente viene usato dal regime nordcoreano. D'altra parte la Corea del Nord vive su un sistema di mobilitazione in massa. Sono anche venute fuori recentemente delle notizie probabilmente abbastanza fantascientifiche o comunque di dubbia origine, per cui Kim Jong-un e il suo regime sarebbero in una fase di contestazione da parte interna e quindi naturalmente cercano di arrivare a una fase di consolidamento della propria legittimità attraverso anche queste prove muscolari da proiettare poi anche all'interno. Io credo che in questo momento non ci sia nessun tipo pericolo. Poca credibilità da parte del regime all'interno, credo anzi che queste prove proiettate verso l'esterno non facciano nient'altro se non il gioco di Kim Jong-un, che adesso io non vorrei entrare nei tecnicismi, ma mi limito a dire solo esclusivamente che per ulteriormente consolidare la sua presenza all'interno del regime, il suo apporto all'interno del regime, il suo potere all'interno del regime, ha dato un volto nuovo al regime stesso, coinvolgendo delle persone che non sono sicuramente le persone dell'aiuto del quale fruiva il padre, quindi ha sostanzialmente riverniciato il regime nordcoreano. Sì, allora cari ascoltatrici e ascoltatori, ascoltiamo un ritratto di questo leader, il leader eterno, per capire meglio anche che figura è e come si muove all'interno degli apparati nordcoreani. Sentite. In questo periodo il suo volto compare ogni giorno su giornali TV di tutto il mondo. Ma di Kim Jong-un non sappiamo con certezza neanche quando sia nato. Le fonti ufficiali nordcoreane fissano la data di nascita all'8 gennaio 1982, ma il leader nordcoreano potrebbe essere nato anche uno o due anni dopo. Figlio del defunto leader Kim Jong-il e della sua seconda compagna, il giovane Kim ha un fratello più grande e una sorella più giovane, e soprattutto un fratellastro morto il febbraio scorso in un misterioso omicidio all'aeroporto di Kuala Lumpur, che con ogni probabilità lui stesso avrebbe ordinato. Secondo diversi report ritenuti probabili quasi al 100%, Kim Jong-un ha frequentato una scuola svizzera nascosto dietro l'identità del figlio di un imprecisato diplomatico nordcoreano. I suoi compagni di classe di allora ricordano un ragazzo ambizioso e innamorato del basket. Nel dicembre 2011, a pochi giorni dalla morte del padre, Kim Jong-un diventa il leader massimo della Corea del Nord. E da allora sostengono report impossibili da confermare, a cui la stampa occidentale fornisce peso eccessivo, avrebbe epurato e condannato a morte diversi possibili rivali, tra cui uno zio. Di sicuro c'è solo che da quando Kim Jong-un è al potere, la Corea del Nord è diventata più bellicosa che mai. In soli 6 anni al potere, il leader nordcoreano ha effettuato più test missilistici che nei 67 anni in cui erano al potere il nonno Kim Il-sung e il padre Kim Jong-il. Da febbraio a oggi, la Corea del Nord ha effettuato 12 test e lanciato 18 missili. E questo era il ritratto del leader nordcoreano Kim Jong-un, che come Donald Trump ci ha abituato a dichiarazioni piuttosto forti. Stiamo capendo che da un lato si parlano i due, dall'altro evidentemente entrambi parlano anche all'elettorato e alla popolazione statunitense da un lato, nordcoreana dall'altro. Poi c'è un altro caso che, come dire, è abbastanza recente, perché l'assassino, il fratellastro di Kim Jong-un, che ha avuto anche, come dire, una fattispecie un po' rocambolesca, perché sono state inviate dei killer, credo che fosse in Indonesia, adesso se non erro, o in Malaysia, è stato assassinato, insomma, che ha mostrato evidentemente come questa figura monolitica, qualche nemico al suo interno evidentemente ce l'ha, o quantomeno delle paure le ha. Su questo punto, diciamo, su quanto sia forte e granitico Kim Jong-un, professor Fiori, e poi Giulia Pompili. Ma ci sono degli aspetti ancora abbastanza diciamo così oscuri nell'uccisione del fratellastro di Kim Jong-un. Una cosa io vorrei metterla in chiaro, perché una cosa che fondamentalmente sulla stampa italiana non è mai venuta fuori con forza, e cioè che i due non si erano mai incontrati. Non si sono mai incontrati, anche perché sono figli di due madri diverse, e naturalmente in un regime come quello nordcoreano non si dà la possibilità di originare una guerra intestina che potrebbe minare il regime stesso. Quindi fondamentalmente Kim Jong-nam e Kim Jong-un non si conoscevano neppure, probabilmente si sono incontrati una sola volta quando erano molto giovani entrambi, nonostante la differenza di età. L'assassinio di Kim Jong-nam potrebbe avere svariate spiegazioni. Io quella che do normalmente, quella che mi pare più convincente, anche viste le contingenze, cioè il fatto che Kim Jong-nam vivesse in Cina sotto la protezione cinese, a Macao per sì. Alcuni periodi, la spiegazione che do normalmente è che ci potesse essere un qualche tipo di accordo recondito tra i cinesi e Kim Jong-nam per il futuro. Questa mi sembra la spiegazione più indicata. Non credo che ci fosse la volontà da parte di Kim Jong-un di regolare i conti con un fratellastro che non dava assolutamente nessun tipo di noia al regime. Non credo che questa possa essere una spiegazione in qualche maniera da prendere in considerazione. Sì, Giulia Pompili, sei d'accordo? Alla fine, dietro a quel strano assassinio, c'è la lunga mano di Pechino, quantomeno gli interessi di Pechino che si sono scontrati con quelli di Pyongyang. Sì, beh, certo, è chiaro che Pechino poi risolve le questioni che riguardano la Corea del Nord sempre limitandosi proprio al suo interesse nazionale, insomma. Sì. E lo vediamo anche dal cambiamento che c'è stato negli ultimi mesi, ma anche anni, rispetto all'atteggiamento nei confronti della Corea del Nord. Dicevi prima Kim Jong-un ha dei nemici, certo. Mi viene in mente, a proposito di morti e di assassini strani, oscuri, lo studente americano che poi insomma è tornato in America ed è morto pochi giorni dopo, senza che si sia mai chiarito bene cosa è successo poi durante la sua detenzione pretestuosa in Corea del Nord, e il motivo per cui poi qualche mese dopo l'America ha deciso di vietare i viaggi turistici in Corea del Nord fa parte anche di questa strategia qui, insomma, di chiudere, isolare non solo diplomaticamente ma proprio economicamente. Il turismo serve molto alla Corea del Nord per mettere da parte soldi stranieri, proprio moneta corrente, e il fatto di chiudere al turismo fa parte di questa strategia. Ma certamente Kim Jong-un ha dei nemici anche insomma, abbastanza potenti, ecco. Sì. Il caso Giulia che citavi, lo studente era Otto Van Beer, che era stato detenuto da marzo 2016, poi liberato il 13 giugno scorso, ed era stato accusato di aver trafugato un ritratto, se non erro, appunto del leader eterno, e quindi era stato imprigionato. Era un atto evidentemente oltraggioso per il regime di Pyongyang, è stato trattenuto per un anno, poi è stato rilasciato, ma era in coma. Il caso di Otto è stato eclatante, perché capita a volte che la Corea del Nord pretestuosamente appunto imprigioni alcune persone che passano attraverso la Corea del Nord, strategiche per usarle, diciamo così, come merce di scambio, come se fossero dei ricatti che si fanno. Pochi giorni fa, nel giorno del Fire and Fury di Trump, è stato liberato un sacerdote, credo canadese, sì. Grazie alla diplomazia canadese che si era mossa, era detenuto da 2 anni, diciamo. Succede spesso. Il caso di Otto è stato clamoroso, perché appunto sembra che appena è stato fermato all'aeroporto di Pyongyang, poi pochi giorni dopo si è entrato in coma, e che la Corea del Nord non abbia mai comunicato effettivamente le condizioni di salute di questo ragazzo. Solitamente non sono trattati malissimo i detenuti, proprio perché nessuno ha la volontà di ucciderli o di farli morire, ma tutto può succedere in un pasticcio simile, no? Certo. Il pastore canadese a cui facevi riferimento, Lim Yeon-soo, è pastore canadese ma di origine coreana, era stato arrestato a gennaio del 2015, era entrato nel paese con una missione umanitaria cinese, poi però era stato condannato a dicembre all'ergastolo e ai lavori pesanti perché la Corte Suprema di Pyongyang l'aveva riconosciuto colpevole di un complotto sovversivo contro appunto il regime, che poi sono accuse, come dire, estremamente vaste, dentro le quali evidentemente si nascondono anche quei giochi politici a cui tu stai facendo riferimento. Professor Antonio Fiori, proviamo a fotografare meglio il paese. Abbiamo provato all'inizio a dare, come dire, due dritte su quello che è la Corea del Nord. Su cosa si basa fondamentalmente la vita e l'economia soprattutto della Corea del Nord? Ricordiamo che è stato posto a un embargo, quindi, come dire, non è un'economia particolarmente traspirante nei confronti degli altri paesi. Quali sono i grandi pilastri su cui si fonda Pyongyang? Ma è abbastanza semplice dirlo. Prima di tutto è un'economia in crescita. Questo viene confortato dai dati, questa fotografia è confortata dai dati. È un paese orientativamente che cresce tra l'1 e il 5% annuo da almeno un triennio. Quindi naturalmente anche dal punto di vista della ripresa economica il potere di Kim Jong-un si è fatto sentire in maniera rilevante. Quali sono i capisaldi di questa crescita economica a fronte, come dice lei, delle sanzioni economiche che vengono invece imposte dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite indipendentemente e autonomamente anche da altri paesi? Sì. Beh, il primo pilastro è naturalmente la Repubblica Popolare Cinese, un paese che nonostante firmi sanzioni in sede di Consiglio di Sicurezza, poi le aggira senza grossissimi problemi, quindi è ovvio che la tradizionale alleanza, seppure in alcuni casi sia diventata abbastanza friabile, ma la tradizionale alleanza tra i due paesi è qualche cosa che regge. Il secondo caposaldo che secondo i dati fa introitare all'incirca $1 miliardo all'anno alla Corea del Nord e il lavoro forzato in paesi terzi, e quindi naturalmente i nordcoreani che vengono spediti dal regime a lavorare in altri paesi. Sì. La vendita di armi è naturalmente una cosa abbastanza acclarata. Ricordo per esempio gli egiziani che nel 2016 intercettarono un cargo di materiale militare che era depositato all'interno di una nave nordcoreana. La droga, l'oppio, viene coltivato in Corea del Nord e poi venduto anche all'estero, e poi il cosiddetto cybercrime. Non si creda che il cybercrime sia una cosa non rilevante per la Corea del Nord. Io sì. Volevo soltanto, e poi mi taccio, ricordare il fatto che 81 milioni di dollari sono stati sottratti dai nordcoreani, da quanto ovviamente ne sappiamo, attraverso un attacco cybercrime ai danni del Bangladesh. Quindi è una guerra tra poveri, sì. Molto spesso, però pare che i nordcoreani ci sappiano fare con questo tipo di attività. Sì, fra l'altro abbiamo menzionato proprio la Corea del Nord e questa sua attività di cybercrime in una delle puntate speciali andate in onda a luglio, in cui affrontavamo quattro grandi temi che possono spiegare almeno in parte l'attualità internazionale, le grosse dinamiche internazionali. Raccontavamo appunto come tra gli insospettabili vi sia anche la Corea del Nord, che evidentemente ha raggiunto un livello di capacità di sferrare questi attacchi che è notevole, forse insomma potrebbe far saltare sulla sedia i non esperti di questo paese. Adesso vi propongo una piccola pausa, poi stiamo in tema internet e rete, perché nelle puntate scorse Giulia Pompili ci aveva svelato una curiosità interessante che riguarda proprio internet, subito dopo la pausa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, una puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano, in gran parte dedicata al grande nemico, il male assoluto, come lo celebra l'amministrazione statunitense, come muscolarmente, come ci ha abituato Donald Trump, ormai lo bolla da tempo. Certo, non che dall'altra parte, Pyongyang, la Corea del Nord, come dire, si lasci scappare affermazioni al fulmicotone, però tant'è, stiamo cercando di accendere i riflettori su un paese che non è esattamente molto raccontato per una serie di motivi. Poi c'è la fase inversa, cioè quanto questo paese, quanto fette della popolazione di questo paese guardino all'esterno. Intanto c'è un problema di censura sulla rete, cioè la maggior parte dei nordcoreani non possono accedere ad internet. Però recentemente Giulia Pompili sul Foglio ha scritto un pezzo molto interessante. Io fra l'altro vi ricordo che se volete saperne di più su quella zona c'è la sua newsletter Katane, che omaggia anche la sua vocazione di kendoka, perché Giulia Pompili è una guerriera non solo di penna ma anche di spada. Dopo questa presentazione, Giulia, ha voglia, insomma, quanti iscritti avrai. Giulia nelle scorse puntate ci raccontava che c'è una fetta dell'oligarchia militare nordcoreana che ha accesso alla rete, però va su siti pornografici. Sì, ci sono alcune analisi dei dati di internet. Anzitutto l'accesso a internet in Corea del Nord ha una struttura piramidale, nel senso che c'è la base che non ha accesso a niente praticamente, nonostante esistano insomma mobile, telefonini eccetera, però non c'è l'accesso diretto a internet. Una parte della popolazione che più larga, che ha accesso all'intranet nordcoreano, che funziona molto bene pare, ma l'elite sempre più ristretta in numero di persone invece ha accesso anche a internet come lo conosciamo noi, ecco. Sì. Questa parte, secondo le analisi che si stanno sempre più facendo più numerose sull'analisi dei dati del traffico che arriva dalla Corea del Nord, ci sono molte false flag, nel senso che la Corea del Nord è accusata anche di tenere dei server per conto terzi, quindi non sono tutti i dati che devono essere presi sul serio al 100%. Sì. Però la cosa interessante è che c'è un accesso incredibile ai social network, alla posta elettronica, ai siti di news cinesi per esempio. Sì. E c'è una parte della popolazione anche che visita, come insomma si fa in altre parti nel resto del mondo, anche Pornhub. E Pornhub ha cercato di analizzare il tipo di traffico che arriva dalla Corea del Nord qualche tempo fa e ha scoperto insomma che sono, credo, circa 200 l'anno. Loro stessi dicevano: sì, è possibile che siano le persone che lavorano nelle ambasciate per esempio, non per forza nordcoreani. Certo. Però è divertente questa cosa, soprattutto per il fatto che tra le prime categorie cercate non c'è ragazze cinesi ci sono, quindi sì. Il che denuncerebbe, come dire, un gusto che potrebbe essere affine a quello nordcoreano, quindi esatto, potremmo escludere, esatto, per esempio, insomma, se ci fossero personale dei consolati o delle ambasciate magari occidentali che forse hanno, sì, gusti, esatto, adesso sono illazioni, per carità. Però ecco, Giulia Pompili, al di là del magari qualche sorriso che potrebbe avere qualche ascoltatore nel ascoltare questa notizia, è importante perché intanto capiamo che il paese non è totalmente impermeabile, e poi cos'altro? Sicuramente insomma, noi abbiamo questo pregiudizio nei confronti della Corea del Nord come di un paese triste, legato per forza soffocato dal regime, che in parte corrisponde alla realtà, non voglio dire, ma nelle grandi città comunque, cioè soprattutto a Pyongyang, sì, la vita si svolge normalmente. Per questo poi chi torna dalla Corea del Nord dopo un viaggio turistico eccetera poi ne parla come di un paese che non corrisponde e qui metto anche me stessa all'interno della narrazione che si fa della, sì, Corea del Nord spesso, no? I giornalisti che sbagliano spesso a parlarne solo ed esclusivamente se legate a notizie di, appunto, di pericolo di terza guerra mondiale, sì, eccetera, perché in realtà poi c'è una popolazione che è estremamente simile a quella sudcoreana, perché appunto fino a 1953 insomma era lo stesso popolo, no? Negli anni si sono allontanati i linguaggi, si è allontanata un po' la vita di tutti i giorni, ma per esempio poco tempo fa la AP ha fatto un lunghissimo reportage per spiegare i millennial nordcoreani, per esempio, sì, che sono era molto interessante perché raccontava come sia con voci di defectors, quindi da fuoriusciti nordcoreani, ma anche con voci dall'interno, raccontava come in realtà poi ai giovani di oggi che hanno vissuto, insomma, sono diventati grandi insieme a Kim Jong-un, che non hanno questa pressione, non sentono questa pressione della propaganda. Alla fine sì, cioè, dicevano, quando Kim Jong-un parla loro non ascoltano, un po' come svogliati come i nostri studenti, insomma. Sì. È chiaro che è tutto un altro mondo, è tutto un altro universo, diciamo, però non sono poi così lontani Da quello che viviamo noi. Certo. Giulio Pompili, redazione esteri del Foglio, la sua newsletter Catane, ci sta spiegando un po' quella che è la società nordcoreana. Il professor Antonio Fiori invece insegna International Relations East Asia all'Università di Bologna. Lo dico all'inglese perché il corso è in inglese, non è un mio, come dire, un innamoramento esterofilo. Professor Fiori, ci aiuti a entrare un po' meglio nelle pieghe della società nordcoreana. Giulia faceva riferimento ai giovanissimi e c'è questa immagine, no, di una società totalmente vessata, schiacciata. La vita quotidiana invece a Pyongyang com'è? La vita quotidiana, io sono esattamente in linea con Giulia, la vita quotidiana è una vita che viene vissuta così come viene vissuta in tutto il resto del mondo. C'è un meraviglioso libro di Barbara Demick, una giornalista che ha scritto un libro eccezionale raccontando, uscendo dalla ricostruzione della Corea del Nord così come ce la presenta la stampa quotidianamente, raccontando esattamente come vivono i nordcoreani, e l'affresco che ne viene fuori è di una società che vive di tutta quella serie di cose di cui viviamo tutti, sentimenti, amore, sesso, eccetera, eccetera, relazioni sociali normalissime. Naturalmente è un paese sotto uno stretto controllo, e anche la società naturalmente è una società sotto un ferreo controllo. La società nordcoreana è strettamente organizzata in tre classi che rimandano a un sistema preciso, che è quello che in coreano si chiama Songbun, cioè un'organizzazione fatta in funzione della fedeltà nei confronti del regime. Chi è più fedele, naturalmente la trasmissione di questa fedeltà è ereditaria su linea patriarcale, chi è più fedele riceve naturalmente gli omaggi migliori da parte del regime. Naturalmente in questo ci sono tutta una serie di comodità, quindi le case migliori, la possibilità di risiedere a Pyongyang, lo specifico perché coloro i quali risiedono a Pyongyang possono farlo solo esclusivamente perché hanno lo status per farlo, sì, e tutta una serie di facilitazioni che rendono la vita sicuramente più semplice di coloro che vivono nelle zone più remote del paese. Quindi è una società, certo, naturalmente molto controllata, ma alla fine dei conti è una società che vive così come tutte le altre. Ecco, quali sono le possibilità di apertura verso l'esterno che può avere la società nordcoreana? Studenti o professionisti che vanno all'estero, personale consolare, e fin dove si possono spingere? Cioè, dove può arrivare un nordcoreano, funzionario o cittadino o studente che sia? Ma fondamentalmente dai dati di cui siamo in possesso c'è un 1% della popolazione nordcoreana che vive stabilmente o quasi stabilmente all'estero. Si tratta naturalmente di funzionari o studenti che vengono mandati dal regime per rappresentare il regime all'estero o per costruire una carriera, diciamo così, da funzionario o da diplomatico futuro, e queste persone sono persone che vengono assolutamente scelte dallo stesso regime. Dalla Corea del Nord si esce in maniera controllatissima, i cittadini non possono assolutamente uscire su loro scelta, quindi devono uscire dopo aver ottenuto il benestare del regime, e possono farlo solo per specifici compiti o funzioni che devono naturalmente svolgere, certo, in quel momento o nel futuro. Certo. Allora, se la Corea del Nord è un paese piuttosto chiuso, l'avete sentito dalle parole del professor Fiori, ci sono zone dentro la Corea del Nord che sono assolutamente chiuse, che sono i famigerati campi di lavori forzati, dove vi sono anche delle nascite, cioè persone che sono nate proprio in quel campo, e fra i vari documentari, in verità i documentari non tantissimi, e i libri che sono usciti, ce n'è uno per esempio che si intitola Fuga dal campo 14, che a opera di un giornalista americano racconta la storia di Shin Dong-yuk, spero di pronunciarlo bene, che è l'unico uomo nato in un campo di prigionia che è poi riuscito a fuggire e a raccontare appunto quello che ha visto. Giulio Pompili, questo rimane forse uno degli argomenti dirimenti che le associazioni per la difesa dei diritti dell'uomo mettono sul tavolo, no? Quando è ora di parlare di diritti umani in Corea del Nord, per questi campi di prigionia giganteschi. Sono uno schiaffo ovviamente ai diritti, però molto poco si sa di questi campi. Sì, e devo dire che spesso diciamo che c'è un business anche dietro la verità. Parlo per esempio di Shin Dong-yuk, che ha scritto questo libro e poi dopo qualche anno, che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo, poi dopo qualche anno è stato costretto a smentire alcune cose che erano state, diciamo, alcuni dettagli su cui aveva forzato la mano, sì, perché ovviamente vende di più un libro in cui si parla di certe cose così truculente, no? Non so, certo, come, non, beh, so come chiaro, dire, per non offendere, perché in realtà il problema è veramente molto serio, sì, e basterebbe dire la verità per far sì che le Nazioni Unite si muovessero nei confronti della Corea del Nord, perché quello che dico sempre, insomma, è che quando poi la Corea del Nord cadrà e arriveremo ai campi di lavoro e diremo come quando, insomma, i soldati entrarono, no, nei campi di concentramento, sì, e allora lì ci renderemo conto veramente di quello che succedeva in alcuni coni d'ombra della Corea del Nord. Detto questo, si è montato nel corso degli anni una serie di personaggi che sono stati designati a essere i volti della dissidenza nordcoreana, sì, e che però spesso cadono in delle trappole del business, aiutati anche appunto da giornalisti, media, proprio per cercare di aumentare la pressione. Però se poi riusciamo, cioè cadiamo in tentazione, ci facciamo smentire, sì, così facilmente, poi perdiamo credibilità. Certo, no, è evidentemente una narrazione che parla tanto alla pancia, che diventa tragica, struggente, sicuramente. Immagino anche il mercato americano, no? Per esempio, chiaramente diventa molto più appetibile nel momento in cui tu eleggi a grande nemico la Corea del Nord, c'è qualcuno che scappa e ti racconta veramente come stanno le cose. Evidentemente è facile andare a toccare certe corde, no? Per essere più efficaci e, come dici giustamente tu, insomma, per poi vendere di più. Vero è che rimane il problema dei campi, dei lavori forzati, e quando e se cadrà questo regime e in che forma lo vedremo, faremo luce su questi, come giustamente li chiamavi tu, coni d'ombra. Facciamo l'ultima pausa, poi ho l'ultimissima domanda per voi che riguarda un po' il futuro di questo paese. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, una puntata quasi tutta dedicata alla Corea del Nord, al suo leader, alla sua economia, alla sua società, anche per andare a indagare quelli che sono i chiaroscuri al di là di una narrazione molto spesso, come i miei ospiti mi facevano notare, che è un po' troppo granitica, un po' troppo monolitica. Abbiamo anche parlato dei campi di concentramento. Dobbiamo parlare però del futuro, e su questo vorrei solleticare soprattutto il professor Antonio Fiori, lo ricordo, insegna, è professore associato all'Università di Bologna, insegna International Relations East Asia, lo ripeto, lo dico in inglese perché il corso è in inglese. Professor Fiori, il futuro della Corea del Nord, abbiamo capito che è un'economia che comunque cresce, dove c'è un leader comunque forte, però prima o poi Kim Jong-un dovrà lasciare il potere. A chi lo lascerà, o vi saranno fattori esterni che in qualche modo incrineranno la sua leadership? Quindi che futuro dobbiamo aspettarci nei prossimi anni? La domanda è particolarmente difficile. Kim Jong-un è un leader molto giovane, quindi immagino che il problema della successione sia rimandato di molti decenni probabilmente. Non si sa moltissimo sui suoi eredi, è possibile che abbia già due figli, una di sicuro dovrebbe essere la primogenita e una bambina, e quindi il potere non dovrebbe passare nelle sue mani, e quindi naturalmente si aspetta di vedere un erede maschio. La Corea del Nord ci ha abituato già a due successioni, e quindi potrebbe rimanere il paese che è ancora per molti decenni, oppure se le minacce dovessero continuare e ci dovesse poi essere una reazione da parte della comunità internazionale, o più segnatamente da parte degli Stati Uniti, si potrebbe pensare a un paese nuovo, un paese rinnovato, evidentemente anche la possibilità di una penisola unificata. L'unico problema che io mi pongo è che se la Corea del Nord dovesse, diciamo così, essere costretta a cambiare registro da una sollecitazione esterna, sono abbastanza sicuro che la conseguenza potrebbe essere drammatica sia per la penisola, quindi naturalmente coinvolgere la Corea del Sud, sia anche per l'intera stabilità della regione, e questo naturalmente non me lo auguro. Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio, esperta dell'area, chi potrebbe svolgere un ruolo in questo senso? Cioè, quale potrebbe essere un partner verso l'apertura? Possiamo parlare della Cina, ma in che modo? Insomma, non sono esattamente maestri di apertura, anche se, voglio dire, negli anni delle cose sono accadute. Sono gli unici che parlano direttamente con gli ufficiali, in questo momento con gli ufficiali nordcoreani. Io credo, insomma, nel maggio scorso Moon Jae-in, il presidente attuale sudcoreano, è stato eletto anche per questa sua apertura, devo dire, molto sentita nei confronti della Corea del Nord, quello che Park, la presidente precedente, non era riuscita a fare. Anzi, nel 2013 aveva chiuso il complesso industriale congiunto di Kaesong, che era così il business as usual, no? Cioè il luogo dove Corea del Nord e Corea del Sud trafficavano, facevano business veramente. Lei l'aveva chiuso, lui è stato eletto anche perché aveva promesso una riapertura, perché solamente facendo passare questa mano tesa in qualche modo si può riuscire a penetrare all'interno della Corea del Nord, non in altri modi, voglio dire. E Moon Jae-in è stato completamente messo da parte dall'America in questo momento, è proprio questo un dato obiettivo, cioè lo stanno costringendo a ripararsi da un eventuale attacco, non lasciare che gestisca una situazione politica di dialogo, di riapertura, di un colloquio costruttivo con del resto i fratelli del Nord. Sì. Tutto quello che sta facendo Trump aumenta la tensione, e appunto anche solamente il fatto che non abbia ancora nominato l'ambasciatore in Corea del Sud dell'America, secondo me è proprio il segnale di quanto stia mettendo da parte i legittimi, quelli che poi stanno rischiando di più dalla situazione, perché appunto in caso di first strike americano si dice che l'America deve essere pronta a sacrificare Seoul, perché effettivamente sarebbe il primo obiettivo nordcoreano. Certo. Bisognerebbe lasciare che le cose... lasciare le cose a chi veramente vuole fare un passo in più per il dialogo, e non mantenere questo impasse che sembra risico e nient'altro. Certo, e quindi se posso sintetizzare sul futuro della Corea del Nord e le relazioni con gli Stati Uniti, ma anche con la Corea del Sud, grande punto di domanda, che forse non è esattamente costruttivo, ma tant'è, staremo a vedere. Io ringrazio i miei ospiti, che sono stati Antonio Fiori, professore associato a Bologna, International Relations East Asia, e Giulia Pompili, redazione esteri del Foglio, e ricordo la sua newsletter Catane. Grazie mille Giulia, grazie mille professore, alla prossima, buona giornata e buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Allora, siamo quasi in chiusura in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata alla Corea del Nord. Abbiamo analizzato la sua potenza militare ed economica, ma siamo anche andati tra le strade di Pyongyang per meglio capire come vivono i cittadini nordcoreani, sfatare anche un po' di miti, quella narrativa monolitica che spesso rappresenta e bolla il regime di Pyongyang in un solo unico modo, il punto di vista che non fa molto bene al racconto. E i nostri ospiti precedenti hanno più volte evocato Pechino, la Cina, come un terzo attore che potrebbe svolgere un ruolo molto importante. Ci soccorre adesso in questa analisi, siamo quasi in chiusura, Simone Pieranni, redazione esteri del Manifesto. Simone, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a voi. Allora, Simone, che cosa può fare Pechino nel dirimere, se avrà la forza, la possibilità, questa contesa tra Pyongyang e Washington? Recentemente alcuni giornali cinesi avrebbero lasciato trapelare indiscrezioni per cui si direbbe che in caso di aggressione da parte degli Stati Uniti, Pechino ovviamente farà vedere i muscoli, ma nel caso in cui fosse la Corea del Nord per prima a iniziare questa guerra, beh, a quel punto insomma si schiererebbe. Sono dichiarazioni che filtrano, che ci danno, come dire, un'idea di quella che è la posizione anche ufficiale di Pechino, secondo te? Allora, innanzitutto queste dichiarazioni sono uscite sul Global Times, che è un quotidiano nazionalista cinese e che rappresenta non l'intero Partito Comunista, ma sicuramente alcune anime del Partito Comunista. Ed è molto significativo perché sicuramente dà l'idea di un cambiamento dell'approccio da parte della Cina nei confronti della Corea del Nord, che è cambiato, diciamo, nel corso del tempo, no? Da alleato ferreo e sempre pronto a difendere Pyongyang anche a livello internazionale, proprio nei giorni scorsi la Cina ha dato il proprio ok, ad esempio, alle nuove sanzioni dell'ONU, le più dure da molto tempo contro Pyongyang. Questo significa, tutto sommato, che la Cina ha cambiato il suo approccio nei confronti della Corea del Nord, anche a causa probabilmente di una difficoltà più recente a trovare quei canali necessari e sufficienti per riportare Kim Jong-un a un tavolo di negoziato, che poi è l'obiettivo che la Cina ha sempre specificato, cioè da un lato abbandono del programma nucleare da parte della Corea del Nord, dall'altro abbandono delle esercitazioni congiunte del sistema antimissilistico TARD da parte degli Stati Uniti nella Corea del Sud. Io credo che in questo momento la Cina abbia un'unica strada percorribile, perché evidentemente da sola non è riuscita a trovare una quadra, ed è forse la necessità di coinvolgere più parti, più stati, come ad esempio la Corea del Sud, il Giappone, ma probabilmente anche la Russia, il Giappone, fermo restando naturalmente le problematiche che esistono tra i due paesi, cioè farsi per certi versi portatore di un'istanza più ampia internazionale che riesca a convincere tanto Kim Jong-un quanto Trump ad arrivare a un tavolo di negoziate. Ricordiamo che la Corea del Nord è stata a un tavolo delle trattative nel 2008 proprio a fianco alla Cina. Io credo che la Cina, con questo scarto nei confronti di Pyongyang, possa riuscire a ottenere una soluzione che tra l'altro gli conviene, perché immaginiamoci il lancio della nuova via della seta con un conflitto praticamente alle porte, solo attraverso il coinvolgimento di altri paesi a livello internazionale. Ecco Simone, in qualche modo hai prevenuto quella che era la mia seconda e ultima domanda, cioè quale potrebbe essere la convenienza anche economica da parte di Pechino nel smarcarsi da una posizione che era di fedele alleato, come dicevi tu, ferreo appunto di Kim Jong-un, e adesso invece appunto si smarca. Evidentemente c'è, come dire, il denaro è molto forte, insomma, a volte va anche a ridisegnare gli assetti geopolitici. Sì, chiaramente la Cina è l'ultima cosa di cui ha bisogno in Asia, anche proprio per questo nuovo ruolo che ha assunto dopo l'abbandono da parte di Trump del Trans-Pacific Partnership in Asia. È un conflitto, diciamo, alle porte, con quello che significherebbe anche a livello di profughi e di problematiche quindi anche legate a flussi di persone. Da un punto di vista economico la Corea non ha mai pesato più di tanto sulla Cina, che di fatto sostiene comunque il regime di Pyongyang. È più una motivazione che potremmo definire geopolitica, cioè utilizzare la Corea del Nord come un cuscinetto tra la Cina e la Corea del Sud, non rischiando quindi di ritrovarsi una Corea unificata a guida di Seul con le basi americane praticamente al proprio confine. Però sembra che a questo punto forse la Cina abbia anche rinunciato a vederla in questo modo e stia provando appunto a garantire una situazione che si possa prolungare nel tempo di stabilità e senza escandescenze attraverso un cambio sicuramente di prospettiva sulla stessa Corea del Nord. Grazie mille Simone Pierani per essere stato con noi e averci svelato quello che è il ruolo, che potrebbe essere il ruolo della Cina in questa partita a scacchi o schermaglia, se volete, fioretto, clave, insomma speriamo che l'escalation non avvenga. Grazie mille Simone, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Tempo scaduto, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori, si chiude qui questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano che ha cercato di meglio indagare i rapporti tra Corea del Nord e Stati Uniti, ma soprattutto cos'è la Corea del Nord, per scendere anche dentro le pieghe di una narrazione troppo spesso monolitica su questo importante paese. Io vi ricordo che l'appuntamento è per questa sera alle 20, la replica domattina alle 6. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Tali e Elisa Pancaldi che hanno confezionato anche questa volta con me questa puntata speciale di Nessun Luogo è Lontano. Valeria Bernardi che gli ha dato ritmo e musica. L'appuntamento quindi, se non sono le repliche, sarà domani, Ferragosto, siamo in diretta e attenzione, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.